ricordo qui a Bosco, quando ero curato giù a Campesozzo, una contrada disagiata, lontana. Adesso c'è la strada, una bella strada. Giù c'era un vecchietto che aveva oltrepassato il valico dei 90, e la sua moglie era lì, qualche mese di differenza. Lui è completamente cieco, lei completamente sorda. Valentino cieco e la moglie sorda. Io, quando avevo un attimo di tempo, dovevo correre giù e ci impiegavo, perché ci vuole una buona ora e un quarto ad arrivare giù, e arrivare su ce ne vogliono quasi due. Salvo che non si vada in macchina, io non avevo nemmeno la bicicletta, quindi tantomeno la macchina. Era lui che mi mandava a chiamare. Dite a Don Nigino che Valentino ha da parlarli. E allora, quando il parroco mi permetteva, dice: va, vai pure. E arrivavo in casa. Ripeto che lui era cieco, ma ci sentiva bene. La moglie invece il contrario. La moglie sorda come una campana, ma ci vedeva bene come una ragazza. Era una festa. Tutti e due in camera, uno sempre in letto, Valentino, lei su una poltrona lì. E si confessava, no, questo vecchietto, a voce alta, perché alta non sentiva. Questo vecchietto dice: Don Nigino, adesso che mi ha confessato, ma guarda che mi voleva giù. Se avessi ascoltato lui tutti i giorni, cosa impossibile fisicamente. Adesso che mi ha confessato, mi dica: se io morissi stanotte, dove andrei? Valentino, un uomo in gamba come siete voi, dove volete andare? Caro, perché quando ero bambino mi ha detto mia mamma: guardati Valentino, che quando si muore, dove si va a dormire la prima notte, ci si resta sempre. E io quando viene notte penso sempre a quello che mi diceva la mia mamma: Valentino, guarda che quando si muore, la notte dove si dorme la prima volta, là, per sempre. Mi dica, Don Nigino, se io morissi stanotte, dove andrei a passare la prima notte? Oh, Valentino, vorrei essere al vostro posto, certamente in paradiso. Cosa ha detto? Paradiso, paradiso. Oh, allora mi stringeva le mani, le baciava e fissava l'appuntamento per la prossima volta, che se avessi dovuto ascoltare lui, doveva essere il giorno dopo, ma era un piacere. Con il suo buio pesto mi diceva che era stato in udienza di Leone XIII, di Pio X, Benedetto XV, Pio XI, era quasi secolare sto Valentino. E dice: io nella notte sono sempre in San Pietro, vedo Leone XIII, vedo Pio X, le udienze che ha avuto, perché era innamorato di Roma. E quando aveva quattro soldi partiva con la sua vecchietta e andava a Roma sperando di avere udienza dal Papa. Il suo paradiso in terra era lì. E poi, con l'avvicinarsi della notte, anche se non vedeva niente, sentiva che si avvicinava la notte, dall'umidità che sentiva nell'aria. E allora diceva: Valentino, dove dormirai la prima notte, là rimarrai per sempre. Come se la mamma fosse lì, vicino al suo capezzale, a dirgli: Valentino, quando vai a letto la sera, mettiti in regola con la coscienza, sai Valentino? Le nostre sante mamme che ci hanno insegnato così il nostro destino. Quel vecchietto, se avesse potuto ancora uscire di letto, sarebbe corso a Roma in cerca di un altro papa per averne la benedizione. Di giorno pensava ai suoi pellegrinaggi a Roma come uno che avesse 20 anni, 40 anni, 50 anni, mentre il suo corpo ormai era a letto stabilmente. Lo levavano soltanto quella mezz'ora per rifargli il letto. Eppure il pensiero dell'aldilà non lo abbandonava mai, come uno che sta per fare un passo importante. Il valico dal quale nessuno è mai tornato indietro e che ti introduce non in un'udienza del Papa, un solo Dio e un solo Papa, ti introduce nell'udienza di Dio stesso. È l'ultima volta che l'ho visto. La stessa parola ha voluto che le ripetessi, gridando al suo orecchio: Valentino, vi assicuro in nome di Dio che c'è già un posto preparato per voi, accanto a Dio, Gesù Cristo, la Madonna, i Santi. E che sorriso mi ha fatto quel vecchietto, più angelo che uomo ormai. Il nostro destino è bellissimo. Nessuno di noi arrivi costernato, avvilito, perché a una festa così grande bisogna arrivare con la cravatta, in frac, ben vestiti, pieni di gioia. Dio non ci ha traditi e, creandoci uomini a sua somiglianza, partecipi dello spirito che è la sua sostanza, non ci ha fatto un torto, non ci ha ingannati, ci ha fatti a sua immagine e somiglianza per essere eredi suoi, coeredi del suo figlio, Cristo Gesù.